Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Dato che le carceri sono un costo puro per lo Stato, potrebbe essere conveniente impegnare i carcerati in lavori socialmente utili. Gino. Per favore, non fate un nuovo indulto. Costruite carceri. Utilizzando l'edilizia militare in esubero, fate delle carceri leggere per chi ha commesso piccoli reati per la prima volta e per chi beneficia già di un regime di semilibertà. Chi esce per andare a lavorare e rientra per la notte può anche stare in un carcere derivato da un'ex caserma. Renzo. Se i detenuti sono misti, nel senso che sono sia italiani che stranieri, non sarebbe opportuno costruire le carceri con i soldi dell'Europa? Davide. Il tasso dei carcerati in Italia è il più basso dei paesi europei. In particolare ci sono in Italia 75 detenuti per 100.000 abitanti. In Germania sono 88, nei paesi scandinavi 78, in Gran Bretagna 150. Da questo si dovrebbe dedurre che l'Italia è un paese dove abbonda l'onestà. Invece la metà delle rapine compiute in Europa sono compiute in Italia. E inoltre quasi la metà del paese è in mano alla criminalità organizzata. Sergio. Com'è possibile che manchi personale nel sistema carcerario italiano? Se non ho capito male, ci sono 58.000 carcerati e 44.000 unità di polizia giudiziaria. Questo vuol dire 1,31 detenuti per ogni appartenente alla polizia. Mi sembra che Germania e Inghilterra non abbiano questi rapporti. Massimo. Ho trovato gli organi di informazione quasi accondiscendenti in ordine alla notizia secondo cui diventa più difficile usufruire dello sconto del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica. Non si tiene in considerazione che chi ha sostenuto spese per interventi di tal genere ha operato in vigenza di una legge che ora viene snaturata in modo sostanziale e, soprattutto, con effetto retroattivo. Se passasse generalmente un tale principio, ogni accordo con lo Stato diventerebbe opinabile e ci potremmo vedere applicate imposte, tributi, sanzioni e quant'altro retroattivamente e per qualunque importo. Viviamo in un contesto asociale dove gli scaltri che hanno optato speculativamente per i mutui a tasso variabile hanno diritto alla protezione da parte della comunità, mentre chi aderisce a una proposta di natura fiscale prospettata dal Ministero delle Finanze viene truffato. A quando interventi concreti a sostegno pietoso di coloro che hanno perso denaro al casinò? Andrea. Cara redazione di Radio 24, a leggere i giornali e ad ascoltare le notizie radiotelevisive, sembra quasi che la riforma della scuola, curata dal ministro Gelmini, tocchi solo la primaria e l'università. In realtà, però, grandi cambiamenti sono previsti anche per la scuola secondaria di secondo grado, visto che a breve dovrebbero essere emanati i regolamenti recanti i nuovi quadri orari per i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali. Le scuole superiori, in particolare gli istituti tecnici, cambieranno volto, ma non si sa ancora che volto avranno. Si potrebbe discutere sulle scelte del governo in merito se queste scelte fossero pubbliche, ma pubbliche non lo sono. Se i nuovi ordinamenti dovessero entrare in vigore dall'anno scolastico 2010, ci sarebbe tutto il tempo, ma a quanto sembra il ministro vuole che essi entrino in vigore già dal prossimo anno scolastico. Il punto è allora, tenuto conto che le iscrizioni vanno fatte a gennaio 2009, come può un ragazzo di terza media scegliere a quale scuola iscriversi per il primo anno delle superiori? E come può una scuola superiore presentarsi ai ragazzi e alle famiglie? Cosa può dire in merito all'offerta formativa o a ciò che i ragazzi impareranno in quella scuola? Loris Pordenone. Premesso che non voglio entrare nel merito della giustezza o meno della legge Gelmini, vorrei però fare una riflessione. Dato che verranno abolite le 36-40 ore settimanali della scuola primaria, dato che è esplicitamente scritto nel testo della legge che le ore dovranno essere non più di 24 a settimana, dato che le eventuali ore aggiuntive alle 24, per arrivare alla copertura delle 36-40 attuali, non dovranno risultare a carico né del comune né della scuola, dato che moltissime famiglie del mio paesello hanno, chi più chi meno, la necessità lavorativa di poter usufruire del tempo pieno per i propri figli, dato che l'ICI è stata abolita e quindi non vi possono essere riserve economiche da utilizzare per queste ore aggiuntive, de facto mi hanno tolto un servizio a parità di tasse pagate. Per riavere lo stesso servizio dovrò pagare, oltre alle tasse che sto già pagando, anche qualcosa in più. Quindi, di fatto, mi hanno aumentato le tasse. Luca. Egregio direttore, nella scorsa legislatura il governo, per dare tracciabilità ai pagamenti, aveva disposto limiti per i pagamenti con carta moneta, incentivando quelli con assegni bancari e carte di credito. Lo scopo era la riduzione dell'evasione fiscale. I giornali ed altri media dissero che non era pensabile che persone anziane potessero avere dimestichezza con queste forme di pagamento, definendo disastrosa la decisione del governo. Adesso che quasi 1,5 milioni di incapienti avranno a disposizione una carta di credito ricaricabile, non sento e non leggo sugli stessi giornali le argomentazioni di un tempo, neanche per l'uso disinvolto del termine social card. Apprendo invece che la Mastercard riceverà circa 1,5 milioni di euro per i suoi servizi. Mi auguro che il decreto attuativo preveda forme di controllo per il suo utilizzo, esempio, tipo di esercizi autorizzati a ricevere questa forma di pagamento, e che non vi possano essere casi di clonazione delle stesse, dato il loro livello di diffusione. Evitando anche che succeda quanto successo a suo tempo con i ticket restaurant. Anni fa, un bancario che si credeva un banchiere aveva previsto una scalata bancaria prelevando poche decine di euro dai conti dei suoi clienti. Piccole somme che, moltiplicate per il numero di correntisti, gli davano una provvista sufficiente a fare la scalata e quindi restituire i soldi ai suoi depositanti. Cosa accadrà della social card priva al momento di forme di controllo? Agostino. Da quando è nato il Partito delle Libertà, nel Partito Democratico la confusione è andata sempre più aumentando. Io li ho votati e me ne sono pentito, perché trovo la loro identità inesistente. A quante votazioni si sono astenuti? Quante persone li hanno già abbandonati? Quante dichiarazioni contraddittorie escono ogni giorno? Non si capisce niente, non esprimono alcuna posizione netta e unanime su alcunché. Preferirei di gran lunga si dessero un'identità che non condivido rispetto a questo vuoto assoluto. In questi giorni ci sono state le primarie dei giovani PD. La pubblicità è stata minima. In molti posti non si sapeva dove andare a votare. Sembra vi siano stati tutta una serie di brogli e di errori e una quantità infinita di cose che non hanno funzionato. Ho sentito qualcuno della direzione del PD dichiarare «Vogliamo evitare spettacoli negativi ulteriori. Espelleremo Villari senza fare alcun dibattito». Dichiarazione paradossale. Se espellerlo è già male, espellerlo senza dibattito è ancora peggio. Se il PD vuole essere alternativo al PDL e caratterizzarsi essenzialmente come democratico, dovrebbe fare le cose diversamente, o no? Se non si riesce a definire una posizione unitaria su moltissimi temi, credo che una vera democrazia interna potrebbe ben aiutarlo. E, d'altronde, Veltroni non ha neppure un briciolo del carisma di Silvio e non gli riuscirà mai di fare quel che fa lui. Pietro. Buongiorno, direttore. Ecco in estrema sintesi il piano anticrisi, l'unico che possa salvare il nostro paese. In un momento come questo, il vero surplus è avere la certezza del lavoro. I dipendenti pubblici e di aziende partecipate dallo Stato, quindi, dovrebbero scontare questo minore rischio con stipendi più bassi. Questo invece non accade, anzi, ormai accade il contrario. Io propongo perciò di tagliare subito del 10% e anche di più per chi ha redditi più alti gli stipendi dei dipendenti pubblici e delle aziende partecipate dallo Stato. I circa 20 miliardi all'anno extra finanziaria che se ne ricaverebbero, investiamoli nelle aziende private, che creano vera ricchezza e lavoro, in modo che possano assumere personale a tempo indeterminato in Italia. Questa azione porterà maggior sicurezza nei lavoratori privati e quindi più domanda, dando avvio di nuovo a un circolo virtuoso. Lettera firmata. Caro direttore, ho notato l'intransigente battaglia che Santa Romana Chiesa conduce per la salvaguardia della vita, come la definiscono loro, nei confronti dei malati in coma vegetativo, vietando l'indagine embrionale per accertare se vi siano deformazioni congenite e combattendo contro qualsiasi controllo demografico, affermando che il pianeta può sostentare anche 9 miliardi di uomini. Ebbene, Il denominatore comune di queste battaglie è sempre la salvaguardia della vita, intesa come mera espressione biologica, ma sempre disgiunta da qualsiasi valutazione qualitativa in termini di vita dignitosa, ovvero di una vita degna di essere vissuta. Non capisco poi perché, vita per vita, la Chiesa trascuri, anzi ignori completamente le sevizie, lo sfruttamento e le barbarie nei confronti degli animali. Mi sembra un antropocentrismo che mal si concilia con il loro messaggio. Edoardo. Scusate, per avere un governo liberale che si limiti ad abbassare le tasse e a lasciare i soldi in tasca agli italiani, invece di ridistribuire spiccioli a pioggia alla parte improduttiva della società, chi devo votare? Se si continua a penalizzare chi produce, l'Italia rimane all'ultimo posto in Europa per quanto riguarda il regime fiscale, e ad incentivare chi non produce, non dobbiamo stupirci che si vada sempre peggio. Per l'Italia ci vorrebbe solo un forte shock liberale. Dalla sera alla mattina, flat tax al 20%. Con l'impegno di tenerla tale per un minimo di 10 anni. Se un cittadino si trova in tasca 40 euro in più, senza sapere se li avrà domani, dopo aver chiuso un debito contingente, li dedicherà al risparmio. Se lasciamo i soldi in tasca alla gente, si libera l'economia. Ma la promessa deve essere a lungo respiro, altrimenti i soldi restano nel risparmio e basta. Marcello. Vorrei esprimere il mio disappunto dopo aver sentito che a seguito del raddoppio dell'IVA sui canoni di abbonamento alle TV satellitari aumenterà forse l'abbonamento a Sky. Forse pagherò 100 o 120 euro in più all'anno, visto che mi piace avere accesso a tutto il pacchetto. O forse sarò costretto a privarmi di qualche canale, sicuramente più interessante come contenuti rispetto alla TV in chiaro. Mi chiedo, possibile che avere accesso alla pluralità dell'informazione costi sempre di più? E se invece i 4 milioni di abbonati decidessero di non pagare il canone Rai? Potrebbe essere un'idea, dato che il costo del canone equivale più o meno al prezzo in più che dovremmo pagare per l'abbonamento a Sky. Distinti saluti, Paolo, provincia di Pescara, operaio, 36 anni, bamboccione per necessità, avendo un reddito mensile di 900 euro. Caro Paolo, ci sono state molte proteste dopo la pubblicazione del decreto del governo con l'aumento dell'IVA sulle TV a pagamento. Si tratta di un provvedimento che si presta a due osservazioni. Da una parte è l'abolizione di un privilegio, l'IVA ridotta al 10% di cui godevano appunto le TV a pagamento, un privilegio che era stato voluto e deciso per favorire la diffusione delle televisioni via satellite. Dall'altra parte, tuttavia, questo maggiore onere colpisce un settore in cui le società del Presidente del Consiglio sono largamente presenti. L'intervento del governo quindi da una parte è sicuramente giustificato perché abolisce un privilegio, ma dall'altra è politicamente inopportuno perché è una dimostrazione di palese conflitto di interessi. Ma allora cosa avrebbe dovuto fare il governo? Una cosa altrettanto semplice a dirsi quanto complesso nel realizzarla. Chiedere sui punti su cui vi sia il legittimo sospetto di conflitto di interesse un'intesa preventiva con l'opposizione. Se vi fosse una larga maggioranza, l'accusa di conflitto di interesse potrebbe svanire come neve al sole e un'intesa su punti specifici tra maggioranza e opposizione farebbe sicuramente bene anche al Paese. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.